libro da cosa dalla caldaia, uso una confusione, perché la caldaia che non va, la vita. Per chi? E vedi cosa stai facendo? Sul sito della marca della caldaia, devo fare la registrazione, devo vedere se mi fa vedere. Mi ha detto mi fa vedere il coso. I libri di uso e manutenzione. Da qui, così almeno vediamo perché si è bloccato. È positivo. Va bene. No, io sono andato a prendere la macchina. In garage per domani mattina. Ho preso l'altra grande. Quindi domani mattina me la attesi. Uscirò verso le 6:30. Il Ginepro a prendermi il caffè con la Brescia e poi faccio tutta una tirata, se no c'è un po' di roba da fare, ma tutta questa festa, tutta questa rotta di palle, perché ho preso l'altra macchina, quindi ne approfitto, faccio anche lavorare a domani, fai di chi fa un cazzo. Che non la usa e quindi si sporca. La grande? No, la grande è sempre in garage. Non sempre la macchina piccola. Già va bene, già va bene. No, beh, non ci vado la Smart. Lo faccio prima con questa. La volata. Quella non so se la devo spaccare, se magari faccio il salto a Porto Maggiore, non so. C'è un sacco di cose da fare domani. Tu che giro hai? Sempre lo stesso? No, domani faccio latte dolce. Ah, a giorni alterni sì, dipende dalla regione, no? No, io faccio molte di latte dolce, un giorno faccio una cosa, un giorno faccio l'altra, ho capito? Ho capito, è via lattie, io voglio fare tutto. Devo fare tutto. Vabbè, domani sono attivi, ci vediamo. Cose, poi una volta che mi sono organizzato e impostato, poi mi sposto, mi sto organizzando, sto parlando appunto con quello tipo stamattina e molto probabilmente il martedì e il venerdì vorrei darmi di nuovo Sassari, quindi vabbè, adesso vediamo domani di organizzarci, poi sino alle feste natalizie andiamo avanti così, poi dall'anno nuovo vediamo di fare un organigramma. E se ti ha detto lui che dopo ti organizza il lavoro, meglio così, almeno così sei tranquillo. Sì, dovrebbe vedere lui prima il piano di lavoro, poi lo vediamo assieme, stamattina ne abbiamo già parlato, è venuto a prendermi, stamattina siamo usciti a prendere un caffè, ci siamo organizzati sul lavoro, però adesso stamattina alle 10 deve vedere com'è la situazione. Non è un impianto nuovo per me, comunque ho già lavorato sul biogas, quindi non è un problema, però me devo organizzare, capito? Ma devo vedere com'è la situazione, quanti turni abbiamo, cosa dobbiamo fare, l'impostazione eccetera, e poi nel frattempo poi vediamo la prossima settimana, adesso rimando la tesi sino a sabato mattina, poi la prossima settimana vediamo di fare un organigramma di lavoro e organizzarci un po' tutti assieme. Ma infatti sentato ti ha detto di corso, di se ne andiamo a lui, vedi un attimino dopo come ti devi organizzare. No, già, per quello non c'è problema, ci consultiamo spesso con questo dirigente. E adesso vediamo domani, domani andiamo lì, e poi la prossima settimana, se mi dà anche Sassari, ci avrò da ottava a promotore, se quindi ci ho messo a organizzare io, poi non c'è problema. Va bene, e me lo sei uscito? No, ho stato poco fa, poi non ti ho chiamato. Sono rimasto a Francio, infatti penso che provo a chiamare a vedere se per caso ha risolto qualcosa. No, niente di particolare. Mi è stato proprio fare mia figlia, e io accompagno di garage a prendere la macchina, perché domani mi serve la macchina grande. Intanto vabbè, tu esci sempre sul lettolario. Io quando sto partendo da Tiesi, magari io sono già a Sassari, ti chiamo così ci organizziamo per il pomeriggio a fare quella cosa, capito? Sì, dopo tanto guarda, non viene verso direttamente verso l'espresso e qualcosa. Tanto prima di quell'ora non sono, quindi è inutile guardare tutti. Va bene, direttamente verso le tre ti chiamo, allora ci organizziamo. Va bene, va bene. Ascolta, non ti sono vicino. Ah, me l'hai detto questa mattina. Ricordati che facciamo anche quel lavoro lì da te. Capito? Quello del TV. La prendiamo quella staffa. Come fai ad averla vista a Media World? Ci sono lì trovi media world, città marcata, ci trovano tutti i posti per questa fine. Adesso vediamo, perché prima chiediamo alla signora, se vuole vedere la scorta, se no si deve vedere anch'io, vediamo già lì, capito? Vabbè, se vuole lasciarlo lì si fa una farina, li metto lì qua Giulio, del colore del mobile. Ti faccio fare uno sgabellino, diciamo, là, questo le vado leggermente un pochino in più. Non c'è problema per quello. Va bene, va bene. Ma perché, cosa c'è? Ancora problemi sto cacchio di caldaia? No, oh, stasera sono uscito fuori a cosa, come si chiama? A guardare c'è la caldaia bloccata, non passa, capito? Rimane la lucetta rosa accesa della centrale e l'altra uguale. E quindi adesso bisogna vedere cosa gli è successo. Ah, in blocco, e quindi in blocco. Beh, il reset non ne ha per poterla resettare. Resettata ma non parte, l'ho già fatto, già fatto, l'ho già visto e non va. Mi dà la spia, come si chiama, la spia gialla, la spia verde, si accende, spegne tutto, come va a partire se ne va in blocco. Positivo. E allora bisogna che consulti qualcuno che lavora sulle caldaie, perché sennò non fa. No, io l'altra volta non stavo andando, però era la pressione dell'acqua, soltanto non mi ricordavo come si apriva il rubinetto, perché c'era poca pressione nell'impianto e quando c'è poca pressione non basta, c'era solo la luce gialla accesa. Invece oggi c'è la gialla, la rossa e la gialla, e quello è il gas che non va, capito, che non parte. E quindi adesso bisogna vedere, perché stavo cercando un documento, se riuscivo a trovarlo, e se no, lui dovrò chiamare dove faccio il coso dell'assistenza, capito? Se non ti conviene domani, Mauro, se sei in zona, ti avvicini da Calvisi, gli spieghi qual è il problema e magari te lo risolve lui. È molto bravo Calvisi. Ma io ho fatto il corso, già l'assistenza da uno che c'è in via Corso, mio marino, e quindi adesso voleva lui, perché ci voleva il foglio per il controllo della caldaia, ma l'aveva controllata ed era a posto la caldaia. Capito? Quindi ho fatto l'assistenza da lui, quindi quando lo chiamo io è gratuita, dopo vediamo cosa c'è. Capito? E vabbè, se hai fatto l'assistenza da lui ti conviene continuare ad andare da lui, è chiaro che è così. Sì, perché ho fatto il corso annuale, no, 50 euro all'anno, e quindi lui viene e fa il controllo, e dopo mi... Va bene, non problema. Fammi sapere. se ci sono problemi con la caldaia, c'ho il caldaista nostro che è molto bravo. Portateci. Non fa niente a Mauro, non lo serve una tua. Mi sentiamo 9, Mauro 9, 9, 5, 9, 8. Allora Lucariello. Sera, ho visto assicurandomi il cervello dopo la rischio del computer vecchio, no? C'è roba dentro, però piano la sta leggendo a foto, qualche song, così, sono basi musicali. Fa poco di tutto, va. Portatemi a Claudio. Sì, sì, a 7-9. Perché a te quanto ti arriva? Dove è il la portante? E allora è della zona 2, siccome che si sistema. Francesco ha detto che c'è una palla che non ci vede e quindi Sono uscito per prendere la macchina al garage. non c'è. Oh, assurdo qua. Sì, via master, non c'è, non c'è. Come mai Mauro? Si è installato, nel panno di controllo anche. No, nei programmi non c'è questo programma. Tu ripeti perché c'era me qui lo facendo, ma c'è, non ho capito niente. Allora, ho installato un programma. Questo programma è praticamente una specie di gioco, dai. È installato perché nel panno di controllo c'è, però nei programmi, nella cartella di programmi non c'è. Per esempio, ho installato un altro programma che si chiama AutoGritter, no? Quello che manda i saluti in una chat automatico, quello c'è. Come mai il Trivia Master non c'è? Punto di domanda. Guarda se te l'ha installato prima. Guarda, le vai in... Vedi che l'ha installato. Lo apri e guardi i programmi, controlli dentro se c'è. Oppure l'hai notato, tutti i programmi, guardi. E guardi, prima se te l'ha installato, perché poi c'era te l'ha installato. Se c'è l'ha installato, se non parlo di controllo, c'è anche nel desktop una icona. Solo che questo programma qua, siccome è in inglese, no? Se lo apro, lo avvio, cosa succede? Se lo mando in inglese, allora cosa c'ho? Praticamente io ho altri due file per far sì che questo programma mandi così in italiano, me lo manda in italiano. Questi due file si chiama uno poster, l'altro data, li devo mettere dentro il programma del Trivia. Poi il Trivia non c'è, nei programmi di Trivia non c'è. Nel panel di controllo sì, ma nel come si chiama? Nei programmi non c'è, la cartella programmi. Guarda una cosa, che non devi riavviare il computer, perché in certi programmi devi prendere e spegnere e riaccendere il coso. Il computer per funzionare, se non da. Ma ce ne andiamo, come mai il Trivia me l'ha installato e invece c'è nei programmi? Tu prova a fargli quella questo coso, tu falli prendere lo riavvii e basta, vedi? Perché in certi programmi se non lo riavvii anche aggiornamenti, se tu non lo riavvii il computer non te li fa vedere. Io l'ho sempre installato tipo nell'XP e lo vedevo subito. Adesso l'ho riavviato, vediamo un po'. Comunque, Claudio, stavo dicendo, questo computer ha molta più memoria, detto che c'è un disco da 320, ma è più lento, lo sai, da 80 è una scheggia, è leggermente più lento ad accendere, ci mette 5 secondi in meno, 6 secondi in meno ad accendere. In più, scusa, non in meno, in più. Ah, rispetto a quello là? Rispetto all'altro disco che avevo prima, l'80, forse la 320 e ci metto un po' di più. Vabbè, no, tu mi stavi dicendo che se io faccio quel lavoro là che ti ha detto quel tuo amico, praticamente è molto più veloce. Ma lì si tratta di RAM, se tu metti, adesso tu rimetti un disco più grande, almeno da, non so quanto può, oppure viene meglio accoppi un altro, no? Se uno metti tutto il sistema operativo, per esempio in quello che c'è adesso, nell'altro metti tutto quello che ci rimettono, come si chiama, i programmi, tutte queste cose qua. Ma era valere qua, bisogna chiedere a una persona là, ti ho detto. Ce lo fai tu, io non so cosa dirti. Io non posso parlare se vuoi. Mi stava dicendo anche che ne ha uno computer, bello, un Windows 7. Ci stava parlando con Windows 7. È un 3000, un 3002, è un giga di RAM, ci stava parlando certo che era Windows 7. Costava danno 150 euro, solo il case, tra case, mouse e coso, e tastiera. Interessante quello, non è che è interessante, quindi più veloce di quello che ho io. Cazzo, 3002 qua. 3002. Esattamente il 3002, cosa vuol dire 3002, fammi capire. Il processore, qua, cosa vuol dire? Invece il mio, eh? Mi sembra che sia un aspetto il tuo era, non mi ricordo, non lo so, non mi ricordo, forse era un, non lo so, ma no, è dietro la palla, non lo ricordo. Comunque ti ricordi che è più grande del mio? Non lo so neanche io, voglio essere spento, ma giuro. Vabbè, ne parliamo, vai, ne parliamo, ti quando fu mi fa sapere, prima di fare le cose si prova, si vede, se va bene si prende, non è che dia un'incurata, capito? Però si provano le cose, quindi un po' si tiene una garanzia, non è che prima cosa così, dopo di un mese si fascia, capito? No, si prova una garanzia questo qua, se parla, non so su cui va a barri. Io lascio fare a te, do tutto a te, spazio a te, se tu mi dici vai tranquillo, si porta tutto qua, si prova, si attacca il monitor mio, non c'è problema, si prova, se tutto va bene, tu mi dici va bene, tutto a posto, soldi alla mano, pronti pagato, se no non pago più niente senza provare, perché il computer è riubiliato, un sacco di curati. No, va, tu solo. Io e un mio carissimo amico ci hanno curato in due. Guarda, questo è questo, no? Non ho chiesto io perché, comunque sia, l'ho chiesto io. Però è un signor computer, si può dire rigarado. Anche io qualcosa gli ho dato, no? Che sono rimasto con le mani in mano. Però il signor computer è tutto alla perfezione. Capito? Vabbè, già parliamo, no? Sono pure. È un casino grande. Vabbè, te lo già io non ho altri problemi. Nessun problema. Adesso devo completarmi questa settimana perché sono stato assente, praticamente io sono assente da sabato scorso, perché nel sabato ho lavorato, poi domenica e lunedì ero a riposo, martedì mattina ero così a disposizione, giusto per fare il ponte, però diciamo non ho fatto niente, oggi è festa, quindi domani devo andare. Sono impaginato, se no ce l'avamo visti anche domani, non c'è problema. Entro settimana ci vediamo, ne parliamo, vediamo un po'. Se tu, ripeto, che sei più esperto, mi dici, va bene, io non ho problemi, perché lo sai, io maneggio tutto nel computer, quello che devo maneggiare, però non mi di va ciambi contro ciambi, perché intanto non ne comprendo nulla, non me la fotte nulla. Diciamo che non me ne frutti proprio nulla, perché a capire già lo capisco quello che sto facendo, ma non me ne frutti nulla perché intanto non so dove metterci le mani, perciò tu lo sai, vuoi mettere le mani, se mi dici va bene, io ti do carta bianca, soldi alla mano e fai tutto e due. No, siamo capiti allora, no. Non è che devi dare a me, assolutamente, che non mi devi dare a me. Ti ho detto, prima si chiama, c'è una data, si andiamo a casa tua, si prova, vedi un po' tutta la maladama, ti metti d'accordo se questo computer è a posto, ti ha una garanzia, non è che qui è una cosa così, no, assolutamente. Si prova, vedi un po' se ti ha la garanzia, poi ti arrangia tu, non io. E io non mi voglio mettere in mezzo perché tu magari ti basso un burro che io sei sicuro che è una bella persona comunque sia, allora, non è cattivo, perché anche lo conosci sicuramente, lo conosci. Cioè, non penso ti vai pure per i cabusi. Lo devi vedere tu questo qua, non io. Io ti dicevo che lo sto prendendo. Perché io ho fatto anche un favore alla persona, sono fatto le nomi, gli ho detto proprio qua, bimbo, bimbo, ha avuto un piccolo problema, una gazzarda, che praticamente c'era il wireless disattivato, ha fatto un casino, la madonna, oh tu sei colpa d'ora, mi sei dato due, ma tu che la bravo, è colpa mia, cioè ti ho fatto un favore a fargli fare quello che doveva fare al computer e te la vedi con me, no? Che a questo punto non ne faccio più qua. Non per te, attenzione, però mi è già capitato. Perciò ti arrangiare tu con lui. Ma lo conosci anche qua, ti ho detto chi è. Io pago, faccio tutto, però tu mi devi dire, va bene, perché sei tu che vieni qua, assieme a lui. Vieni tu qua assieme a lui, cambi il kiss, lo provi, vai dove devi andare, fai tutte le manovre che devi fare e mi dici, secondo me va bene, controlla tu, io controllo, se per me va bene, soldi alla mano ci paga lui, questo che sto dicendo. Posso, non è quello, claro. Fatti capire che lo devi vedere tu, non è che cioè, se pigli la butti due, la butti a te la metti con me, quindi tu mi dici, magari, cazzo, magari la visto dove compito non segui, lo devi volere tu, vedere un po', poi certo lo vedo anche io come com'è tutta la maladam. Comunque c'ha, insomma, il corso, è un 2 giga di RAM mi sembra, un 3.2, diciamo che è un buon bo, va bene, c'è un 50 non si può comprare, perché non mi fa anch'io il case, non va nuovo. Dico gli hard disk quanto c'ha? Gli hard disk c'ha 80 mi sembra. Sì, insomma, per, se tu non ci dovevi mettere molta roba già va bene. Ma lui lo sai cosa c'ha, lì che c'è l'hard disk piccolo e la RAM piccola, una volta lui li mette un hard disk nuovo e aggiunge 1-2 giga di RAM, quel computer lo sai quanto diventa veloce. Sì, ma infatti, è quello. Sono andato da lui, perché i soldi li sta spendendo lui, cioè non è che... È come se lui a me fa comprare una cosa, guarda amico suo, e poi male non fai, una mia rubiglia, cioè non dico una rubiglia un caso, poi dico qua, perché cade quello mi ha dato una cosa che non anda, cosa è, ma c'è, non devo vedere, però di questo è tu qua, non è che dici così, piglia, ma non mi è caduto in busciacca, non me l'ha fatti nuda, assolutamente, perché non... Ma pensa detto quel pezzo che stava dando, ma non ti dico male, parla con un attiglio, non voleva andare all'attiglio per il bar, fai il karaoke. Ah, io avevo già sicuramente Servallia, lo conosco, non c'è problema. Io Luca, io ti ho capito, non me la piglio nessuno io, tu mi hai dato un'idea, io devo affrontare l'idea, poi se mi butti ecco, ma tu cosa meglio mi devo dire, non ha fatto un gamma. Però dico, se c'è uno che ne capisce è meglio, perché lo sai, al computer le cose mie me le fai tu, perché c'hai il team e se tu fai tu, proprio perché io no, non c'ho né pazienza e soprattutto non mi comprendo nulla, tutto qua. Capito? Quindi è una cosa che non mi ha mai appassionato, faccio le cose indispensabili che mi servono a me, ce lo sai, quello che mi hai sempre detto. Lo capisco al volo perché non sono di quelli che sta lì a perdere tempo, però più di quello io non ci batto col computer perché no, non mi interessa perciò, però voglio che sia più veloce, ma anche per i vari vedi, è abbastanza pratico. E poi tanto devo comprare anche la stampante perché si è rotta, si aggiunge un po' dello gomodo, non devo comprare più, devo comprare una Portobello bella, mia, nuova, nuova, certo 15 euro. Cosa ho fatto? Due settimane fa ho messo in stampa tutte le elaborazioni di lavoro che mi servivano, tu sei bloccata, gruppo a Bino Trento, sei chiudata, ma non ho voluto la giubilata, ci buttavo con la cassa che mi hanno detto, non ammara. Infatti l'ha detto che domani va a Città Mercato lì a Mediavolo che la compra nuova. Perché la stampante mi serve per fare un sacco di cose, quindi ne approfitto così mettiamo anche la stampante e tutto. Lo facciamo bene quel lavoro, capito? Quindi non c'è problema per quello qua. Si fa un bel lavoro, si fa un bel impiantino, là, diciamo. No, non devo dire tu, però a prezzo buono, fisso pure lo sai, è meglio del portatile, ma non c'è paragone, so che devo avere posto, sul posto c'è, grazie a Dio. La bella sedia di Bose se si è mai alla grande, solo che vedi, sta un problema proprio. Non tutti, per esempio il mio no, il mio o parlo o metto musica, uno dei due. Con quello forse si può fare, si può mettere una scheda apposita per modo tale che diventi come XP, che c'è lo stereo mix, capito, è il cosa per parlare anche, il microfono, c'è il coso per... cioè tu metti la musica e parli anche, ecco, io non lo posso fare col mio, perché Google 7, non so cosa rimanca, boh. Comunque vediamo quello comunque, si scarica il driver, la Realtek e poi vediamo un po' se riusciamo a farlo andare. Ma se no poi con musica non fa vedi. No, nel mio metto musica e parlo che lo sera. Non c'è problema. Ah, perché quello lì non è XP, cos'è l'altro? Windows 7, sai bello. Ho capito. Vabbè, bisogna provarlo. Bisogna provarlo. A me mi piace anche io, ho fatto musica a parlare, perché guarda, stavo guardando su eBay, c'è l'hard disk interno da 500 GB, 42 euro. Quindi questo è 42 euro, mi basta guardare, adesso ti guardo nell'anno, per aumentarla un giga davanti a due, e quel computer, guarda, sono convinto che neanche centinaio di euro, 100 spiccioli, quello ti diventa una scheggia quella fa. Vedete voi, io non ho di problemi, io basta che voi mi dite quello che devo fare, io lo faccio. Se vuoi la mano, mi va raggiunto, perché a me del computer non me l'ha più tenuta, è importante che voi dica a me non mi deve andare, anche se non l'aria mi lo cura pittore HD. Camminare già si fa camminare, non è un problema, ti sto dicendo che lì tu c'hai le RAM piccoline, sicuramente io non l'ho guardata. Oh Luca, da quanto è da 512 quella RAM che c'è col computer lungo, il suo? Sai che un giga di RAM c'ha, Claudio. E allora basta pigliare un altro giga di RAM, farlo 2 giga, più quella hard disk che ho visto adesso su eBay, c'è la spedizione gratis, 42 euro, ci metti quello, più altri 30 euro la RAM, con neanche 100 euro non fai più veloce tutto qua. Però aspetta, quanto va il tuo disco? Eh? Ma quanto va il hard disk? 500 gigabyte. Non so se ce la fanno. Allora, questo qua, il computer mio è un 1007. Aspetta, 1007 in pari che sia. Allora, non so mai come cacchio si va per vederlo. Vabbè, comunque, questo è un 1007. Io gli ho messo un disco da 320. Va, però è molto, molto, molto, molto più lento di prima. Vabbè, quello è anche in base a cosa ci metti tu dentro, mi. Perché io questo qui che ho io, il mio, non è che c'è nuovo come il computer, eppure mi aveva messo, questo mi aveva messo il sistema operativo più nuovo della prima volta, ma ce l'ho fatto un paio d'anni io questo computer, e va bene. Tu, papà, le sto andando, reggitevi a dopo. E ok, che c'è mai a dopo, dai, Claudio. Comunque è troppo grande quel disco, la dopo qua, troppo grande secondo me, o... Mi va a vedere in base a... Io non c'ho niente, no, se la passa da poco, stavo giocando al poker, no? Mi sono incappato, ho dato un pugno e se ne è andato il disco a farsi benedire. E l'ho comprato il più grande, troppo, ci ho messo per un pugno 120 euro. Come un poker virtuale. Vabbè, siccome più piccoli non lo vendono più da 80, non ce ne sono più a 120 neanche, sono più grandi, da 320 in su i dischi. E non trovo questo qua. Prima era una scheggia, accendeva più veloce, era molto molto più veloce. Adesso questo disco qua non è più lento, Mauro. Me ne accorgo, io lo vedo, non è che su cuciculo. Vabbè, quello sì, ma quello lì non è una cosa, però, che più roba ci metti, è più lento di fammi, non è che ti va più veloce, ti va più lento. Esatto, lo sto dicendo. No, non c'ho nulla, c'è ciò che praticamente ho messo un disco nuovo, non c'è nulla, è vuoto. Ho fatto una partizione, un disco da 320, metà e metà. Perciò in uno tutto il sistema operativo e nell'altro ci posso mettere quello che voglio, tutti i programmi e a voglia a posto, 150 giga di memoria a voglia, no? Cosa ne dici tu? Ah, questo è, adesso l'ho beccato, mi dà Intel Core 2, allora, RAM memoria installata 2 giga. Quindi un po', se ne vale la pena, cioè dico, non so, Claudio, questo, se mi sta bene, non c'è problema. Ma allora, aspetta un attimino, ecco qua, comunque quel programma non me lo mette nei programmi, allucinante, ma stai facendo lui, cosa stai facendo? Picchio. Giuseppe Guminelli, no, questo... Io va bene, ti devo dire che non mi posso lamentare. Quando me l'ha sistemato e funziona benissimo, senza problemi. Ma anche questo qua va bene, sono un pochettino più lento, Mauro. Memoria ne ho, ricca che vanno a occupare, guarda qua vanno a occupare, tu conta 150, allora in uno, aspetta, visto lo spiego meglio, ho fatto una partizione, va, sono metà e metà, 320, metà e metà su 160, ok? Di cui in uno c'è tutto il sistema operativo, ok? Allora, il sistema operativo me ne ho occupato, con l'essere di spazio utilizzato 18 giga, su conta, già dove c'è il sistema operativo ne ho 131 di spazio, in più altre 160, avevo memoria ancora. Ma infatti io non è così, quando ti la RAM ancora se dovresti mangiare, forse appena appena di più la RAM dovresti essere a posto. Va bene, è un giga, vabbè, ma non ti portarla a due comunque, dai, quello sì. Ma ti portarla a due se vuoi dire, magari questi 120 ma rimani. Cosa. No, non so, basta. Se non ti ricordi, mi hai uscito un computer bello, a me, tu sei invece buttato, un computer era un amore. E adesso ci vado tutti e due. Ma infatti il problema è quello, che bisogna stare sempre a tv qua su che. Quando compri queste cose. No, vabbè, io stavo andando da Accoglio, da... questo l'avevo comprato da Via Bucara. Questa è... gli amici te la metto lì dietro, capito? No, questo l'avevo comprato lì da loro, e... vabbè, l'avevo imballato io la prima volta, per la compagnia. Invece dopo... infatti mi aveva consigliato di mettere... di ripetere tutto nuovo, mi hanno messo tutto nuovo, scheda madre e tutto. E Intercool 2, che dovrebbe essere una delle prime che erano uscite, e sta funzionando benissimo, va troppo bene. Fisso il portatile, no? Poi io sto usando il fisso adesso, vabbè, il portatile ce l'ho lo stesso, ma io sto usando sopra il fisso. Qua a casa non accendo il fisso, non mi uso il portatile. A meno che non me ne vado dentro in camera mia. Allora mi prendo il portatile grande e mi uso quello, perché il piccolo tiene poche luci. Sembra ti credo. Allora. Oh, va bene. Non lo so, se vediamo un po' cosa riusciamo a fare. A caso mi serve più veloce, è una gioca che se mi fa. Cosa. Sei tranquillo, se l'avevo compreso, quando l'avevo comprato non l'avevo pigliato. Oh, adesso un po', meno male. Insomma, mi arrangio, vai. So più o meno dove andare, vedo un po'. Se ne accorgi se un computer è buono o no. Vai, se un cranio, però. Invece, siccome l'ho comprato, non compri più nulla. Ah, sono contento. C'è un confortabile. È proprio quello che devo comprare. Cioè, perché a parte non ho spazio qua. Come ci sbaglio un'incurata? Io ho avuto 5 portatili, Mauro, te li ho tutti 5. Ah, io ne ho avuto portatili. Vabbè, l'unico. Allora. Adesso sto guardando quanto ne fa. Ah, fa Napoli a lui. Dovrebbe essere da 100. No, capacità 200, 232 GB che comincia. Capacità. Sì. Comunque mi stavano dicendo di tu prendi quello di Claudio, no? Aspetta che blocco qua. Se tu quello di Claudio li fai, bisogna migliorare anche la processore, che il processore è molto, è quello, perché se li metti anche un giga di RAM, li metti un bel disco, la macchina gira bene, però bisogna vedere che cosa ha, che processore ha. E basta guardare, intanto guarda, quando tu te ne vai dentro, c'è scritto il titolo del sistema operativo, cacciami, basta scrivere il sistema operativo, dirlo a quello che stai dicendo tu e ti dice si conviene farlo o non si conviene farlo, intanto è tu. Al limite i pezzi li prende lui e li installa lui, intanto gli piglia la cagata via a fare una cosa del genere. Adesso vediamo un po' a cosa riusciamo a fare. Per Claudio forse ha fatto lui meglio, cioè l'ideale sarebbe stato un bel portatile. Così se lo mette lì nel fisso magari lo metta a chiamare la figlia, boh. Ma cosa farà? Adesso vediamo un po' va. Mi dimmi un po', bus. Ma noi mangiato abbiamo, Mauro. Sai che qua. Oh, io sto aspettando la lettera di mia moglie a mangiare a cenare. che ha fatto corazza, l'ho comprata qualcuno per la ieri per far farcela la cucina. E quindi sto aspettando la rientra, così la finisco di tre di nostro, sabato. Ah, uscire. Ehi, allora, vediamo un po'. Vieni, mi dici cos'è? Spagnola, sta qua, forse la sta qua. Infatti questa qua, mandessa, vai. Scopato musica, avevo un altro PC, è brutta, no? Tua vita cosa? Discoteca? Ah vai, non è che vede di musica. Ho messo la musica di quella boom boom boom boom. Già si trova. Comunque io domani sera ci devo salire, devo dare. Dobbiamo sistemare la macchina della multa, l'ho pizza, funziona, non funziona. E quindi riguardo a quello mi sa tanto che faccio una cosa, accendo il computer e riguardo il sistema operativo c'ha e quanto c'ha di hard disk. E dopodiché lo diciamo al limite, ci facciamo un salto con Claudio da con te da questo qua e si chiede. Certo ti dà un consiglio, ti dice ora cambiare il bit in quello, ma se non ti dice guarda non ti conviene, e casomai ci prende quello che sto dicendo tu. Adesso vediamo, ora ma cosa faremo Mauro? Io guarda, ripeto, non c'ho spazio, solo avevo preso un bel fisso, perché è molto, molto meglio Raffaello e un'altra musica, non c'è paragone. Lo so, con il fisso io c'ho questo qua che te l'ho detto io. La prima volta ho fatto karate io e l'ho ballato io, perché no, da farlo partire, non farlo partire, alla fine se l'ha mai ballato. E ho messo tutto nuovo, scheda base quanto ce n'è. E funziona, te lo sto dicendo, una meraviglia. Ah, c'è l'offerta, non so tanto di questo disco qua lì a Vattroni, nuovo il computer completo, mouse, tastiera, monitor, 650 euro l'offerta, bello, non me la macchina. Io non so più ce ne sono, io, ma stavo guardando in giro a coso, a caso, lo stavo dicendo, c'è cioè, il volantino di conforama e tutto quanto, gli ho detto guarda ce n'era uno che veniva intorno ai 500 euro l'offerta e andava troppo bene, ma infatti la schia ci sono, adesso per Natale mai li metteranno. A poi secondo me vi conviene girare un po' qualche livello che passano nuovo, cioè da 100 euro in più, 200 euro in più, ma è una cosa nuova, ma è già tarda, sa che è nuovo garantire tutto, perché prendere una roba seconda mano non è che sia cioè non è conveniente. Qua sono preso, l'altra volta sono andato da Franco, quello che c'è su, no, quello vicino al circolo, quel tipo grosso, il conosci anche tu, c'era un altro ragazzo, c'era un computer, era nuovo, la verità, perché era nuovo, e dice che mi ha detto ma lo stai vendendo, ma tu sì, ma quanto ne vuoi? Ma sai, ma so questo, 300 euro. Cazzo, il computer a seconda mano 300 euro, taglio 500 euro, ma lo prendo nuovo, ma stai scherzando? Poi mi ha detto, ma so questo, e vattene di lì, vai. E mai fai il giorno sotto, dai, così, purtroppo. Ma non lo fa lui, lo fanno tutti, tutti quasi lo fanno questo lavoro qua, capito? Che è un casino. Che prendono e ti danno, li additano e ci guadagnano 100-200 euro. Ma infatti non li ho giù comparato, perché il mio se l'ha rotto. E così, perché c'è una, diciamo, non posso pagare la connessione senza utilizzarla, no. Allora ne stacco tutto e buonanotte, così non pago più nulla. Non è bello, capito? Cioè pago non la uso. Non va bene, no, capito? Allora. Niente, prima piano mi sono, diciamo, smontato tra la testa a una parte all'altra. Adesso una volta c'era la storia ricca, era un cioro, non era di Edda, era tutto incasinato. Proprio, mi buia di 10 minuti, un orologio, senza dubbio. Poi, senza contare tutto il resto, c'era dentro il computer, nel desktop, tutti i programmi, era un casino, non c'era più memoria. Sta pieno di monnezza dentro. Ora l'ha formattato, guarda, era un missile. E infatti capita che se tu ci metti troppa roba dentro, monnezza, dopo vai a farlo funzionare ed è lento, non ti funziona bene perché non va. Infatti io, mio nipote, guarda, vabbè, quello mi avevo fatto lì da Franco, il portante del mio grande, infatti mi ha detto, guarda che è questa, è tutta promessa, io non ti dico nulla, più te ne lasci, e dopo metto, non ti cammina, e infatti ne avevano tolto tutto e formattato. Sì, sì, ma infatti lui si è formattato. Però non gli ha fatto i dischi di ripristino, lo sai, questo paracueros. Non ti ha fatto? Dischi, sto formattando dopo, no? Come li ha fatti? Guarda, non ce n'è bisogno, se tu vai a guardare, c'è scritto formatta. Adesso non me ne ricordo dove era, comunque a me me lo dà anche il nuovo, dove c'è un Windows 7. Mi dice formatta, se vuoi uno lo puoi formattare tranquillamente, tanto direttamente. E poi allora, formatta. Crea formatta la partizione del disco rigido. Quello lì. Se gli dici, te lo può formattare. Ma quando non hai bisogno non farne assolutamente. No, lì, dopo ti cancelli quanto ce n'è. Vabbè, formatti tu e mettere il sistema operativo. Sì, devi formattare, mettere il sistema, devi avere il dischetto del sistema operativo, devi avere i codici e installare tutto. Piano, non è facile farlo, Non è facile. Non è facile. E vabbè, comunque. Va bene, io ho cosa dice mamma, aspetta 5 minuti, facciamo fanno, vabbè. Adesso aspettiamo, adesso chiamo mia moglie, mi sento tanto la chiamo e inizio a scaldare la matta, così come arriva mangiamo. E Luca, casomai ci sentiamo domani o dopo, dai, segno Puglia dopo. Ok, se non mi ci corico, se domani mattina alle 4. Ci alziamo per andare a lavorare. Gariello! Wow, wow, micio, micio! Luia! Ciao, piano droghi, faccio lì! Si è fatto un'usuranza! Sono un po', lo dico qua, sto aspettando. Ha mangiato un po'. Due tracce di pizza e un po' di freni. Push! C'è la Roma in Champion 0-0. Io. Cazzo di famolo, grazie a cazzo di radio. Aspetta, non sento più, non sento nessuno. Perché ho un'altra frequenza. Ma no, io le sto tenendo un po' spento. Ogni tanto le accendo. Non come mai più. Non sono a correnti. Se adesso domani mi hai sentito Antonio, domani mi porta la ProKF. Così lo metto lì e ho finito tutto. Tutto. Stavo dicendo lui. Hai visto il monitor mio? Lo voglio attaccare a parete. A parete, quindi sul torre con l'altro pezzo. Ma fai da qua lontano, lo guardi. C'è un grandi di goci. Non ho capito. C'è un grandi perché i caratteri dello scritto. Vabbè, ma io guardo anche quello che guardare. Già guardi, no, è come le musica. Se lo sposti mezzo metro va bene. Poi non si mai riposto bordinato. A meno che ti compri un molto più grande, allora sì, tipo quello di Franco. Oh, insomma, non ce n'è anche, lo vedi, è stato un tricot, allora dove c'è la L, il piano, che è il computer in fondo. E non sapete da dove è, appetterlo al muro, vicino alla finestra, dove ci sono i faretti. Guarda, lo posso misurare solamente, no, 50 centimetri. Va bene. Ma non lo vuole appendere? Sì, sempre in linea alla base, però non in alto, non in linea proprio davanti. Monitor, sono ancora molto largo. può fa. Se può fa. Sì, sì. Senti, dobbiamo rivelare un microfono. No. So. Se parla di Nixi, va a vedere tutto, ha messo tutto il CD. Ce l'ho mai però già, E chi? La musica by night, sono sempre lì, io, sto bene. Sono belle persone. Quando scrivo una cosa non ti improvano come in certi room. Sono un po' più chiocciole, però no, sta veramente bene. Poi la tipa si chiama Soul Woman. Ma sono anche bella a cantare, Ocla, si mette la bocca a becca. Quindi è brava di bocca. Stavamo così così di buru buru. E tu devi dire, la metto spalliera se sembrava, col microfono. Col microfono in pelle. Yeah, I didn't know. mattina al 26 mi faccio il pomeriggio, capita comunque. Poi invece per il 31 sono libero, cioè il primo sono libero, lavoro il 31 mattina e poi l'1 sono libero, quindi non ci sono problemi, perché in questo momento da noi c'è la possibilità di fare qualcosa in più. Ciao. Dico, Gianluca. Dico, lavori 25-26. Sono una bella capolana almeno. No, ma tanto li faccio io i turni. Sono stato io a mettermi in turno, ho già fatto il programma. Proprio stamattina con lui. E appunto lavoro il 25 e il 26 di mattina però, quindi dalle 7 alle 1 e mezza. Basta, più ho finito. Non c'è problema, perciò dico, anche se il 25 è notte, faccio tardi, mezzanotte, l'una, non ho problemi, io sempre che dura me ne invece, a me mi bastano quelle poche ore e basta. Poi il 31 invece lavoro di mattina, il 31 di dicembre lavoro di mattina e poi rientro il 2, perché il primo sono libero, quindi vado di lusso. E poi mi vedi un po'. E vabbè, se non rientra a mezzanotte, rientra a luna, sa. Senti, se ti vedi la da cucinare, è un casino da bua, per sapere. Se ce la fa, tappi. È quello, E tu, se senti come fai a cucinarti. Figurati, in quei giorni lì ci sarà polizia e carabinieri a tutte le parti, ai controlli stradali. Guarda, io quando guido, quando sono fuori, se sono qua a Sassari, magari in compagnia, se sei vicino, magari qualche mi chiede più lo bevi, ma io ci lavoro in macchina, non ho giù le mani a piedi, quindi non c'è problema. Poi Anna tornando in Argentina, poi c'è anche l'aria in macchina, quindi non è quello il problema, è tutto sotto controllo, va benissimo. C'è l'aria con me, 31, perché parte il 29 rientra il 2, che va fuori, perciò al 25 ci devi andare molto molto piano. Vedi un po' tu, c'è la partenza adesso, un casino, no? E io me lo dico, sono un amico io, gli hanno fatto, gli hanno messo la macchina all'asta, mi sono portata via, quando è, la settimana scorsa al garage, via Pasqua, non ho fatto prima il fermo amministrativo e poi portata via, sequestrata la macchina e mi pare che sia andata a finire all'asta, un SLK la fine del mondo. Ma quanto ci vuole? No, ci manti pare non l'avrei. Non l'avrei ritirata io. Niente da fare. Nuova. Una vacca di là. Se questa è stata una data in più, ma ve la vai. Quindi, adesso è un casino per la patente, è un casino qua. Se trovi quello veramente una male girate, se te lo vuoi fare una fucina, oggi non mi ha fucinuta. Purtroppo stanno facendo il loro lavoro, però se torni a quello che c'ha le balle girate, non te la danno più, ti bida il rugio, ti la biglia e ciao, me poi un casino, non vedi più bene, ti fanno fare le visite, come un mio amico gli hanno trovato dei bicchieri di birra, ma per colpa di questo qua ha avuto granata addosso, sono tutti qua senza assicurazione la macchina, senza revisione. Con la patente scaduta, in più corto, adesso non hanno fatto nulla, non hanno fatto nulla, perché conoscevano, non so, tramite il padre, non so qualcosa. La perché di comune invece l'hanno bloccato, la patente da un anno che aveva un dazio di birra in colpo e superava il passo, capito? si era proprio inculato, era più di un anno, quasi un anno, era, diciamo. Quanti volevo dire? Vabbè, poi c'erano altre cose in mezzo. Lo so, bisogna andarci con i piedi di piombo, questo sì. No, ma lui mi pare che avesse un tasso alcolico rispetto alla norma, di, insomma, non molto, qualcosa in più. E poi praticamente la cosa era grave, il sequestro del mezzo. A parte la patente, il casco ti portano via anche la macchina. Quindi bisogna stare molto ma molto attenti, tutto qua, capito lui? Ecco, lo sentivo prima. Purtroppo è a rischio, allora, io non lo sapevo neanche. Ma l'ho detto, anche se ti trovano a piedi ubriaco ti mettono la multa, lo sai Claudio? Se ti trovano a piedi ubriaco ti mettono la multa. Io sono già birro. Finito me l'ha detto. Buona mattina. Ecco perché un mio amico, un collega di lavoro, l'hanno seguito e gli hanno chiesto i documenti da poco in piazza per Colonna Mariana, mi pare. Dice, si trovano il fatto di aggressa, a piedi ti mettono la multa. E se no c'è la galera, E questo lì si è affrontato il 113. Gli ha chiesto i documenti, c'era tutto a posto, c'è tutto a posto perché abbiamo visto un po' così, gli ha detto, ci è rimasto un pochino male, però poi mi ha confessato e ci era il ciclo lì alla Giavolo, qualcosa me l'ho bevuta ma noi ero embriaco. Ma si attaccava tutto là, molto severi, molto, molto, molto severi. Vabbè, so che non trova di letti, prendi tu quel marocchino, mi sembra, no? Che ha ucciso quelle sette persone che erano in bici. Adesso questo qua. Dice che lui non c'entra niente, non so che cosa. Ci è arrivato il 2000, non è arrivato l'impatto di galera. Sì, lui, ma lì ci sono delle attenuanti che giustamente gli avvocati si appellano, perché il discorso dei ciclisti ne abbiamo già parlato, io non voglio incriminare niente perché per carità sono cose che possono succedere, succedere, ma è meglio che non succedano, per capirci. Però ti giuro veramente che a me tante volte mi è successo di trovarmi davanti così all'improvviso, perché non camminano a fila indiana, camminano tutti sparsi nella corsia, capito? Quindi bisogna vedere che cosa è successo, chiaramente questo era veloce, chiaramente pare che fosse mezzo cicciato, e tante cose, quindi sicuramente l'avvocato non ci ha il dito in bocca, qualche attenuante l'ha chiesta, quindi bisogna vedere che cosa le fanno. Casino, ma sono Filippo, non è che credo. Cazzo di Filippo, si trovano stato di avvezza, infatti a Filippo sono stato un ubriaco e lo rinchiudono. Casino, cazzo, perché lui vabbè c'ha problemi adesso perché, diciamo, sta scontando, no? E quelli che sono così non possono andare nei bar, non possono frequentare persone che hanno precedenti penali. Cazzo, sono proprio a rischio, se li trovo poco con un'altra persona che hanno precedenti penali, tu li usarli. Tu pensa, vai capita, hai fatto un amico, cosa fai? Non rifiuti. Vai, stavo parlando, passa la pattuglia, ma io vado a casa. E ti fai in questura e ti usarli, insomma. Dopo la legge, va. Non ho parole, guarda. Lui, fatta la legge, trovato l'inganno. Purtroppo hanno sempre ragione loro e naturalmente c'è anche il fatto che oggi appellarci devi avere un bravo avvocato, e se no te ne mangiano le balle, capito, tutto lì. C'è un sacco di rotture, eccetera, eccetera, e prendi anche quello dei punti, lì c'è stato un casino di Gesù Cristo, cioè tutto. sottoterra, ma il tetto discorsi sopra. Perciò, se lo fai tu, ti rivai, te la fai una carina, cosa se la fai? Ma io molte volte sento, sorprendi l'esempio di questa ragazza che hanno ucciso, questa Sara. Ah, la cazzo col freddo, il rubabu non è, la figliola non è, e vai, allora la vai la mamma, e la rubabu, se il rubabu mi trova nuda, mi dicono così non c'entra niente, dice che ha aiutato, non so, per portare via il cadavere, non so, a caricarla in macchina, non so che cosa, pure il padre, non so, la figliola, la mamma, pure la mamma in mezzo, un casino, eh. Allora sai che è in galera, mi dici tre. Chi va in galera è più debole. Va in galera il più debole, perché alla fin fine poi i discorsi sono quelli, capito? I discorsi sono quelli. Va in galera il più debole. Io dico che può succedere, perché una svista, un problema di guida lo può sempre avere, anche se tu sei per i fatti tuoi, basta un'infrazione, una disattenzione di chi sta guidando e te ne viene in alto. E chiaramente se poi ci scappa il morto, dice cazzo ma mi è venuto addosso lui, ovviamente, ma infatti miei. Però la legge purtroppo la mette in un'altra, quindi dici passi anche tu, ma come mai? E qui e là i rilievi che fanno, quello che ne capisce, quell'altro che non capisce, periti che subentrano, tutto un magna magna per poi dire vabbè lui non c'entra niente, gli stiamo molto la giura. Guarda, come quel cacchio di marocchino, cioè ma tu come fai a mettere in galera una persona, con tutto rispetto io non sono razzista, anche se questo è marocchino, se ha avuto dei problemi, se, si dice se, pare che avesse, non so, forse era lì al momento sbagliato, cazzo durubili e l'arresti, poi ti accorgi che non è lui perché in quel momento è cambiato tutto il discorso. Quello se c'è veramente un avvocato con le contropalle, chiede un risarcimento danni, che allo Stato ne ribassano macchini. Sì, no, guarda, è un casino. Oh, iaia, sono intervenuti i guroni, chi fa, chi più, chi meno, molte volte, perché io sento persone, cazzo di vermani, acciappani, cosa ne so, 5 grammi di cocaina, badi, no, 2 grammi, ma 5 grammi di galera, cioè, io dico che ti fa di cose, ma è uno schifo, non se ne capisce niente, ma anche se ti trovano due spiriti in tasca, sono di truffi, e poi era bivimola, sì. Sì, lui è così, non c'è niente da fare, è così e basta, bisogna stare molto attenti, non giocare più con niente, perché chi sbaglia in questo momento paga, e paga profumatamente, e le conseguenze sono gravissime, per tutto, perché le leggi sono cambiate, perché non lo vede qui Italia, e sagamente di ieri e vuole vedere le ricevute, cazzo mi chiama e mi è arrivata una cartella che mi già farà di io in terra, capito? Di bolli non pagati, io bolli non pagati. Sono andato, ne ho messo tutto in ordine perché io sono ordinatissimo, ne ho preso i bolli delle macchine che loro mi stavano le coppie, me li ho tutti messi in ordine, anno per anno, sono andato, ho chiesto appunto, ho telefonato prima se era possibile fare una cosa del genere, ma così sì, ci deve portare e non tardi perché altrimenti succede un casino. Sono andato, gli ho portato tutto e nel computer risultava che io ero 4 anni che non pagavo bollo, capito? 4 anni che non pagavo bolli, perché in due macchine diverse, del Volvo e dell'Audi, e ho detto ma voi state scherzando, questi sono i bolli pagati, guardi, con tutte le ricevute, con tutti gli allegati e fotocopia del libretto. Dice, lo vedo, guardi qua, mi ha girato il monito, ed era, cioè risultava moroso, capito? Allora io dico, cazzo ma un impiegato che fa questo lavoro, una persona competente che è pagata in un ufficio 60-70 persone, tutti con lo stesso problema e tutti con i documenti in mano. E tu pagandi, ma chi ci vogliamo pagare un zeccale? Va, via. Vabbè. Cazzo, faccio quei secondi, mi avvicino un attimino fuori, vedo da mangiare a luna. Mi porto una cosina da mangiare qua. Non è che abbia, sai, bombe, con una cosina. Sono quello a stomaco, blotto, va, aspetta 5 minuti. Fai che sono qua, non c'è problema. Mauro, ci sei? Mauro? Per i barattini, no? Dove c'è l'altro pezzo che ha finito giù? si dice, confondendo lì con la casa di Via Pascoli. So, poi George e Vanchi, sono giù 7 metri di distanza lunga, 8 metri e 10, per 4, 3, 50 larga, blu. Tutto qui è, dove c'è la L, che c'è, parte dall'amplificatore, si arriva al computer, lì è tutto baracchini. E giro solo la sedia io, e basta con le ruote. E sto usando quello grande col tanto più 3, perché non mi senti? Non lo sto sbagliando con la casa di Via Pascoli, ecco perché. Facevo il baracchino anche in camera da letto. Oh, più grosso nel mondo. Madonna. Adesso la sdraiata, a faccia a terra. Mamma mia, è così di animali a me. Mamma mia, ai ai ai. È un bel programma, però fanno vedere cose, cose allucinanti, veramente. Cose allucinanti. Ma... cioè, io stavo pensando, ma guarda che non lo so più senti, io non lo vedo da qua al televisore. Quindi devo ancora terminare, devo mettere l'aggancio in alto, col piatto quello girevole e mettere il televisore. Ce l'ho ancora da piazzare con lui, ma non ce l'ho manco, ma in 20 giorni me l'ho piazzato, mi sono rotto le palle. Insomma, vai da qua. Allucinante. Praticamente per alzarsi a questo tipo, questo come si chiama? Un coso, un coso a motore, no? Mi si aggancia, si attacca, te lo solleva. Mamma mia. Mamma mia, va. Mamma mia. Questo mi fa la vita proprio da... molto strana. Il problema è solo se lo segui ti spiega tutto, sia negli alimenti e tutto il resto. È sempre nudo lì, non ci sono taglie, che poi c'è sempre un rizzurro lì a paraghichi e basta, non ci sono taglie che possono vestirlo. Mamma mia, va, dicevo, quando è nato pesava 3,5 kg. E adesso l'ho visto, l'ho visto. Hai la mia bocca che va. Alzo un coso, basta. Ma è l'altro giornale in Charme City, così si dice. Vabbè, comunque, dicevo, questo tipo... Spera, basta, che è troppo alto. Charme City. Non dico dire, ok. Sta facendo il bagno, ho letto il giornale. Ecco, dice che questo... lì sono gli squali. Ha trovato lo squalo, se l'ha mangiato tutto un boccone. Ah, quella donna. Beh, e allora io che mi sono chiusi. E tu leggi il giornale che porto parte di Nossana, io mezzogiorno sono andato a funerale. Capito. Che è morto parte di Nossana. Ah. E io è morto. Oggi c'era il funerale. A mezzogiorno, qua la chiesa di San Paolo l'hanno fatti. C'era il mondo. C'era il mondo, c'era il picchetto 9 del comando dei vigili urbani, la polizia municipale. Non usa biuca, porco Giuda, ma è nato, era. Quindi era un anno e qualche mese che stava lottando, c'era un tumore al pancreas. E poi il colpo che ha preso non l'ha fatta superarlo. Caput. Ma il colpo che ha preso... dimesso immediatamente, perché i medici hanno l'avvocato ha detto subito non ci resta neanche un giorno lui dentro, gli altri sono ancora dentro, non ci resta neanche un giorno, perché questa è la cartella clinica, hanno subito dimesso, però dagli arresti domiciliari non ha durato neanche un mese. Basta, ne ho sandra, un ragazzo mi spiace, lo conoscevo, lo conoscevo, ma c'era un tipo, ti ricordi una volta, cioè, poi c'era con te, mi hai invitato lì, avevo venuto qui un certo, un tipo un imbaffi, ti ricordi qua, quello sembrava molto imbaffi, non lì, non è basta, non lo sanno quello. Quello lì? Cioè, come va fit là? E ci stai parlando tu, se mi ritrovano al volo, che corri? E quello era io. Aspetta, adesso faccio una confusione, oh, ma te non sanno, e l'altro bacottino con gli occhiali chi è? Quello era Matteo Sanna, l'altro invece era Coso, come si chiama? L'altro ex assessore ai lavori pubblici. Ma è no, ma lo volevo dire presto. Infatti, quello che hai parlato tu, tipo un imbaffi, quello lì. Quell'altro cappottino con gli occhiali. Cazzo, ma te ne lo sanno, allucinante. Comunque era un grande, dai. Una persona perlomeno era molto conosciuto e poi a me aveva sempre parlato bene questo Bastiano Sanna. Lo so, però lui si è ammalato un anno fa, ha avuto questi dolori, queste fitte al basso ventre, lui pensava che fosse dalla, perché era molto porcaccione, fuori orari, mangiava così, dove si trovava, a destra e a sinistra, sempre al ristorante, sempre, già non è mancato nulla, non si è fatto mancare niente, poi vabbè, da quando era in provincia, poi ancora di più, perché era sempre in giro, a destra e a sinistra, è stato assessore alla fiabilità, quindi è stato assessore alle manutenzioni, provincia, una settimana dove ieri ti è Luca, un bel, infatti c'erano un bel di ragazzi, ma un bel, qualcuno lo conosco, qualcuno no, di vista, un bel di gente, c'era tutta la Multis, tutta, c'era anche Torino Cavasacco. Quindi? Sì, Torino lavora la Multis, mi. Aia, cazzo, allucinante. Vabbè, mi pare che lo conosce bene, perché l'ha preso anche lui la patente lì, l'artista, lo conosce qua, aspetta, mi piace davvero, perché era, e vabbè, già non vediamo, qua non fa parlare più di tanto, qua, lo sai com'è, no? Io lo so, e comunque è stato un po' per tutti, ma no, io lo conoscevo dunque sono entrato nel pistazze nel 98, no nel 99, quando Giacomo era vice sindaco, ma la politica si era anche mio cognato, quindi perciò abbiamo sempre trattato benissimo. Spuntini a Nastro, in campagna di Gaetano, ma a Nastro, lì a Monteoro, lui abitava e abita a casa Ciali, al Biglio di Bancali, una bella casa, una bella villa. Non si è fatto mancare nulla, però purtroppo la salute è così, ha fatto una gastroscopia e l'ha detto, boh, amico mio, arrivatoci, ha fatto chimio, ha fatto tutto, non l'hanno neanche operato, in giro di neanche un anno, 9 mesi, è andato caput. Altro che un cammello. Allora, adesso faccio una confusione. Con Bastiano Sanna, allora, ecco, quello che abbiamo incontrato lui lì al Valle Vele. Sì, a quello che stava parlando con me, diciamo che abbiamo incontrato lì, quello era Bastianito. Siamo con la signora bionda, Maria Teresa, che lavora stesso con lui, era una sua assistente. Un funzionario mi della motorizzazione, non era geometra. Ho fatto un sacco di cortesie a livello tecnico, non a livello di quelli strani, a livello tecnico, un sacco di consulenza le chiedevo sempre, perché era molto preparato, soprattutto in disegni tecnici e in impiantistica, era veramente molto molto preparato. Ma mi spiace, Fede, mi dispiacere. Vabbè, troppo. Caro Claudio, siamo di passaggio tutti, chi più chi meno. Andami va via. Ma adesso mi ricordo sia un anno in più o un anno in meno di mio cognato, 58. 58, no, ci deve a 60 anni. Mamma mia, fatto qua. Ho fatto quella, non più la sola del mondo, senza maglietta, mamma mia, la vedi. Così tu mi aiuti, Madonna santa. Poi c'è entrata una busta in terra con tutte le lattine. Tu pensa che se si mette minimo 100 lattini di Coca-Cola di. Bucci bucci, mamma mia. No, ma lui non era un grande, era molto amante dei vini, quindi ne beveva parecchio. Però non è quello il problema. È dovuto anche a volte dal mangiare, dallo stress. Un politico è soggetto a queste cose. È soggetto. Ma perché c'è un giro al mondo? Infatti c'era già conosciuto, ho fatto due chiacchiere stamattina, noi ci conosciamo, abita qua, 100 metri da me, dall'altra cooperativa che c'è più su, a Polgarasci, e quindi, e niente. Aspetta, mio carino, mio grande, mi sono posato dopo pranzo, che palle è. Stamattina sono uscito con il mio dirigente che mi ha chiamato quando stavo parlando al telefono, mi è salito, mi ha preso, siamo andati a Piazza dei Segni a prendere un caffè, mi aveva col figlio, abbiamo fatto due chiacchiere e niente, ci è passata la mattinata, poi il pomeriggio di nuovo hanno rotto le palle e che non mi sono manco coricato. Vuol dire stasera ci andiamo a letto presto. E beh, scherzi adesso questo baracchino. Ma tu sei a voglia, scherzi. A voglia? Ciao, sono stati fa suite. Mettendo musica, tu cosa? Te l'hanno chiamato, tu due, ma tu mi chiami a fare 10 minuti al microfono, faccio finire, avete 10 minuti per finire, io massimo la metto da 3 minuti, 4 massimo, non di più, ha scritto da 10 minuti e ha scritto la posso far finire, boh, ma sai che è macca, vabbè, Fabricio, poi mascherato di Vegari, tanti saluti a Trucchetti, Mauri Perfitti, una Puglia, e me la trago sta porta Fabri, va bene, si tira avanti e via così, e tu non ti ho più sentito, ma il tiraglio non ti sei più fatto vedere giù, come mai, cazzo disertato hai, ho lo sfratto da dato direttore. Ma quando è stato un mese la noce noi, la pizza, comunque chi vuole entrare? Fagliela mettere, è pazienza, voi sono più forti di me. Se ne approfitti perché sono tutti in altri momenti dall'altro. Ah, non gli fa nulla, non so, poi come la buia abortante. Se mi farebbe qualcosa lì da te, allora ci butterei tutto dalla finestra. Ma Fabrizio è abbastanza distante, quindi. Adesso sta in zona, se stavano presenti. Pari che lo dice e ci ha passato. E vabbè, grazie veramente. Più che quello non può fare. Approfittarne quando c'è qualcuno in zona. Ma la sto mettendo a te perché io con Luca ci parlo tranquillamente, Fabri qui. A me non me la mette perché gira per aspettare che ha fatto, ma se la mette lui. Ma poi se la mette pure il cambio. Dico, sta disturbando a te perché a me e a Luca non ci disturba. Deve mangiare un bel po' di formaggio ancora. Sicuramente sì. Vabbè, lasciate, ma non prova a essere più fatto di te. e mezzo. Ho strappato un microfono, dai qua. Fabi, dimmi. Attenzione, attenzione Sassari. Aspetta un attimo, mi chiama Sassari. Fabi, ripeti. Adesso, come stai, come te la passi? Mamma mia, faccio una male Fabi, abbascia, abbascia, tutto qua, papà, mamma, per abbare, abbascia. Abbassa, abbassa, abbassa, ti chiama Sassari, buonasera. Buonasera signori. Allora, cosa facciamo qua? Attacchiamo le stufe? Che attacca le stufe? Io faccio 24 gradi. Non ho bisogno di attaccare le stufe, io sto andando con la Shimba. E number one è radio. Transceiver. Per stare più tre da tavolo con esattamente 75 watt modulati. Meglio di così non si può uscire. Da lei. Buonasera a tutti. Ciao Sandro, buonasera, ben ascoltato. Avanti Fabrizio. Come va col baracchino Fabio, bene mi senti? Bella, la tua modulazione è sempre inconfondibile, è sempre bella acquillante, va più che bene. Allora, a differenza dei barattoli che sono intendenti che l'ultimo periodo hanno manco una soddisfazione microfonica con baracchini degli anni 70, ci hanno attolgo ogni tanto. Gianluca, che ti vedo da qua che c'hai la bocca piena, non parlare. Sandro, tutto bene, risolto il problema del lavoro? E lui cosa ho risolto niente, ho fatto un buco d'acqua. Ci sono uscito anche ad Orbi, accanto un viaggio a vuoto. E niente, vabbè. Niente, ho dovuto ordinare tutto, adesso fra tre giorni mi arriva. Ciao Sandro. Da quello che è, che tu sei sempre a bocca piena. Madonna. Tu mamma. Mangia, fratello, mangia. Mangia chi ti mangia. Che ti dà mangia? Mangia. Lascialo mangiare un ragazzo che cresce. Aspetta, io che non mangia mica. Peccato che cresce, diventate una botticella. Ma io conosco San Luca che era un coso, ma certo, lungo, fine. Ah, ma se te la vedi, è come se era panzetta come te me, no, Rogarie? C'è la pancia. No, tutti quelli che ho incontrato, gente che abita qua, ma in realtà non stai tu. Cacchio, stai meglio, eh. Vabbè, questo Mario un sacco di pandesse, è prima. Ma male, papà. Ma va bene. Ma la faccia c'è comunque, beh, vabbè. Cazzo ci fa la bassa, ma la retta. C'ho gli addominali prima, ma non si vede di più, c'ho la tripetta. Ah, vai che stai meglio, te l'ho già detto un'altra volta, stai molto, molto meglio, di troppo magro, perché sei alto. Quindi qualche peso in più va bene, poi va bene così, a futtidini. sento incazzare. Oh, ma quello si incazza così facilmente. Si incazza molto facilmente. Poi lui dice che aveva avuto, ma chi altro? E quello mi tomba la faccia di nuovo, 30 lentiere che va. E ha chiesto un caffè, no? Ancora, mi faccio un caffè. E io gli ho scherzato niente ragazzo, non gli ha fatto lo scontrino. E gli ho detto, guarda che se per caso ci sono qualche finanziere in borghese qua, e ti vede che non hai fatto lo scontrino, ti metto la multa, a te e a lui. Per voi lui il padrone, non c'è un cacchio. Capito, gli fa lo scontrino, anche sui padrone. Sei poi qua. Vedi, ma te che prima si è assentato per un po' di tempo, e invece poi è tornato a rompere le scatole. Vabbè, lascialo va. Io non vorrei che mi do ragazza a me i chivi, perché se si torna vicino a me, questa volta ha finito lui di andare lì, capito? A finire quello che lo avevo io, un educato, cazzo. Si vede che fa quei vicinetti. Ma vabbè, pazienza, pazienza. E beh, Sandro, tigre, tigre, cosa ci racconti? Cosa puoi che tu hai? Dai bravo, cosa ti racconto? Niente, sto tremulando tutto il giorno. Oggi pomeriggio lo stesso ero lì a Fassel. Ci hanno visto di metterci i 20 centesimi, i 10 centesimi e pretendono di avere, capito? E bloccano tutto. Se sempre ci sono quei furbi, ma non sono neanche un euro 50 centesimi, no? Maledetti che è il motto dello straniero, quello del furbo di turno, capito? Sa? E io sono tra la settimana, praticamente da sabato, te l'avevo detto, rientro domani a 10, quindi per domani vado con quel grande, poi venerdì vediamo se sono qua a Sassari o se devo riandare a 10, ma mi sa che sino a sabato devo stare andando e tornando, quindi si inizia nuovamente a camminare, a tribolare e a travagliare vero. Finite le feste, finite le ferie, è finito tutto. Ho capito, dai. Carità, cazzo, per carità. Guarda, è cominciato da lunedì, cazzo, una settimana, cazzo di... settimana di cacca, ho detto vabbè cazzo, se cominciamo il periodo di dicembre, le feste, qualcosa di sveglia, per carità, guarda, per carità, allucinante, sto impazzendo, mi stanno facendo impazzire che cosa tremenda, poi da lì ti chiamano, dice bloccata, non funziona, quella, a tassa, ritrovo, tutto quanto, tutto a posto, e vabbè, sono bloccata. Vabbè, vabbè, tira campà, Sandro, tira campà, tanto. I furbi ci sono sempre, poi con quel sistema lì devi stare molto attento, anche perché poi erogando le monete chiaramente diventa un casino perché blocca tutto il sistema. Va bene. Ho capito perché è così, è come suo padre. sono tre camere, un casino, e fate le guardie, mi hanno detto, dice non faccia, ma non reazione, perché poi qua è tutto registrato, arrivano i carabinieri, se arrivano i carabinieri c'è un demente proprio, questa volta fanno gli appoggi da un guaio, non saranno. E niente, si è finita lì, poi un giorno l'accompagnata, Mario non c'era, c'era il padre, mi ha guardato, buongiorno, buongiorno, basta, non l'ho più visto io dal giorno, e spero di non vederlo, perché ancora ce l'ho sulla punta della lingua, capito? Ce l'ho sulla punta della lingua, chi è andata lì, chi mi ha detto, e se mi trova in strada mi calpesta una macchina, vediamo se ce la fa a calpestarmi con la macchina, o se ne riesce con quello prima, io ho detto. Era di sicura, allucinato, ma si vede che è un PD, quella personaggio allucinante. Comunque il padre è peggio, eh. Sì, me l'ha detto l'aria il padre, però è una persona che si può più chiacchierare, capito Fabri? Te l'ha detto l'aria, no, quello che è successo. Ti ripeto, guarda, ma veramente una vergogna, perché stavamo lì con mio collega, avevamo un'ora di pausa, perché abbiamo fatto una fermata su Sassari, proprio a Monteoro, e poi siamo in questa giacca, e andiamo al MEC, ci mangiamo un panino, tanto che fare rientro, così ti faccio conoscere mia figlia, perché si sentivano su Facebook, però si conosceva il mio collega Polottos. E cazzo, mai vi siamo andati, niente, siamo mangiato un panino tranquilli, poi siamo andati al bar a prendere il caffè. Io lì per lì ho visto questo signore uscendo dal retro praticamente, quindi pensavo che lì c'erano le mani, perché ti giuro non sono mai andato, mia figlia c'è quasi 4 anni, non sono mai andato, proprio è un posto che non mi piace per niente. Pensavo fosse stesse uscendo le mani, e invece io stavo girando il caffè e mi puntava, ma proprio Fabri, con la faccia, non so se stava letto l'aria, con la faccia proprio, cazzo guardando a me così uscendo il caffè, sei brutto di tinto, mi ha guiato, ma tu non molto c'era da guardare. Vieni, mi vedere lì, ha capito? Vieni, mi vedere lì. Non si parla così, lì. Che ti dice, Sauri? Ma te nati che mi stai irritando, cazzo, ti con una mano alla faccia, ti ha ammazzo. E lì è partita quasi la rissa, capito? Non è mai così, eh. Un personaggio permaloso, ma è strano. Però Giulia. Ma te la metto a me, cioè non è che a me, perché sinceramente devo la pescata. Agli altri, no, che io devo bere la Coca-Cola e andare via, capito? A berma, un'altra parte. Allora vengo qua per 5 minuti perché tempo regio, prima di andare un'altra parte, tanto per bermela come ti dicevo tu, me la compro al supermercato e me la bevo in macchina. Me l'ha letto l'aria, Fabio, me l'ha letto. Vabbè, ma è tutto esaurito, guarda, ti ripeto. È andata bene il giorno, perché altrimenti mi rovino, io mi sono tra i guardi e qua sta succedendo. Ma nella Gran Fede all'inizio l'ho amata davvero. E lì mi hanno spostato, perché poi c'è l'aria, poi qua finisce, accanto io lo guardo mentre taglio. Buscavo forte, il giorno era incazzato, ma è incazzato davvero. Poi maleducato, come ti permetti tu, cioè io sono un cliente come tutti gli altri. A parte il fatto che lui non mi ha mai visto, non mi conosceva. Ha capito che ero il padre di Aria, perché era certo papà, come ti ha visto, ma ero proprio a un palmo, mi ha detto guarda di culo, insomma la faccia da un matto, io te nato. Si è subito allontanato, lì sono arrivate le guardie ed è successo un po' di casino, però non ci siamo toccati, capito? Ma se non intervengono le guardie, ovvero il mondo, mi faccio tutto, tutto mi faccio, manco una catena ci sai, va. E infatti mi ha detto, cazzo, non sai che le hanno picchiato a Claudio, l'hanno mandato all'ospedale, ah, mi sembra strano. Non l'ho ancora trovato, sono molto tranquillo e sereno, ma il giorno mi ha fatto girare il male, fabbricato minima, ha già mangiato mi ringhi la bocca, si è messo davanti a me, capito? Lì mi deve lì, io non so chi sono io. Ah, ti porti, hai detto, mi stai arrivando, puzzo, vete, che non si ha drogato di culo, una mano alla faccia da un matto. E lì l'aria, come ha visto subito, che ero per beh, è con questo. Può essere anche chi vuole, però insomma, moody. Ti giuro, oggi non siamo una vita. Sai come ero da piccolo e sai come sono da grande. Io non do fatica a nessuno, come me la parlo duro. Perché molta gente è convinta che sai, quello che è molto tranquillo poi diventa uno scemo, capito? Comunque, adesso quando andavo con il tuo collega io bevo il caffè, basta, niente di particolare. Questo c'è il dito, infatti mi ha corretto. Ma cosa vuoi? Quante lontane ti ammazza? Ma se noi siamo qua, a prezzo un caffè, tu vieni a rompere le scatole, ma cosa vuoi? Ma ti nandi o non ti nandi? Non c'è mai buca da un collega mio, perché a me mi avrebbero già allontanato le guardie. Due portanti, sostanziose. Chi è che vuole entrare? La Sassa è la Porto Torres. No, è da qua, è 9.40. Tu vuoi portare la visione portante? No. Chi è che vuole entrare su 10 avanti? Ehi, vabbè, dai. Magari qualcuno che stava provando, dai. Vabbè, sta provando, siamo qua, si può provare, non c'è problema. No, io manco lo rilevo perché, sinceramente, ho spento tutto perché tra non molto me ne vado a Nanna, anzi mi seguo una mezz'oretta allo sport che c'è la Cempio e poi me ne vado a Nanna perché domani mattina me ne vado a fare le 6, qui, anzi, vale le 5 e mezza perché tra prepararmi tutto alle 6 e mezza voglio uscire di casa. Se no arrivo tardi, anche perché mi devo fermare, caffeina, la mia sigarettina e poi anzi il sigarino e poi si parte. Sono andato quando l'altro giorno sono all'aeroporto Torres, ho fatto il giro a Platanoma e sono passato a trovare Lino o Fabri. Ma io ce l'ho stasera, io ce l'ho quasi di sera, capito, per andare a allenarmi lì, su una volta scendo in bicicletta, dipende. La faccio quasi ogni sera. Ma no, io c'avevo un po' di QRL a Senole, ma così di passaggio proprio devo vedere alcune cose. E quindi altro mezzo scendo da Platanoma, ho fatto la panoramica e poi sono sceso giù in officina a Porto Torres. Mi sono fermato da lì, non ho preso le sigarette e un caffè. Noi abbiamo fatto due chiacchiere, ma un po' più vite domenica. Lascia perdere che sono incasinato, perso, non sto uscendo di casa. O perché non ho tempo, o perché sono a lavoro, una cosa e l'altra. Ma tu fatevi vedere, la domenica adesso, da febbraio in poi, il tempo già migliora. E cazzo che è da febbraio, è tutto dicembre, gennaio ancora. Cazzo, c'è tu caso, no? C'era anche stasera, c'è una rettina, quindi poi ci vedi, ma la chiami ci vedi. Sono venuti lì, respiro un po' di aria pure e poi me ne salgo. Ma già non l'ho sempre, io la conosco a vita, a parte il fatto che con Antonello, col fratello, col medico, siamo molto amici, quindi non c'è problema, poi con lui lo stesso. Quel piccolo non ho mai legato molto, ma io non abitavo a Porto, che era un chiosco di Sovara, che cosa, dovevamo giocare a biliardino tutti i giorni, tutti in greffa, quindi lo conosco, mi conosce lui dall'infanzia, che lui è più grande di me. Va bene. Luca. Riprendo io, dai. E Luca si starà facendo la birrozza, questi patatini grigi e i greche, la bella birra. Claudia, ti saluto, dai. Ti saluto che mi devo preparare. Devo organizzare per domani. Speriamo che domani sia un po' più leggero, dai. Ciao Claudio, ce la risentiamo a tutti. Saluto questo Fabrizio che io non sento. Conoscete Fabrizio? Ciao, casino, Fabri, vieni a prendere un'antenna. Allora, se per te lo sento, dove sta parlando? Porto Torres. Ah, no, ci arrivo, io sai che ce l'ho di quello lì. Qui a te, abbiamo bisogno a te. Ce l'ho, ma sono in garage. piace. Alessandro vuole che c'è più un equità che stivo, quindi che ci vuole se per piazza il strano. No, comunque lo sento 3, 3 e mezzo. Ecco, è 9, quasi 9:20. Ciao Sandro, salutissimi, cordialità, ci aggiorniamo domani. Io domani sono ancora alle Puri, ma domani pomeriggio già sono a casa, sono a Sassari. Ci sentiamo, ci aggiorniamo e ci vediamo. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao Flavio, ciao. Da dove stiamo muovendo Fabrizio? La latte dolce, ma c'è un di pulino, non è antenna. Ah, ho capito, allora perfetto, allora. Vabbè, ciao a tutti. Ciao Sandro, no, lui già di 7, 3, 4, 8, 27, non c'è problema. Ok, e quindi Fabri, viaggi, viaggetti, tornei, niente, per Natale? No, negativo, sicuramente la Natale sta a casa, perché a Capolano sto da bene, non vado in Corsica, perché faccio lì. Quindi niente, non mi sposto all'estero quest'anno perché gli amici miei hanno organizzato solo il primavera, sapete, quindi sarò in cuffia dagli amici miei, e poi il primavera ci vedrà. Vabbè, anche quello è da fare. No, io mi sono impegnato il 25 mattina al lavoro, il 26 per essere libero a fine anno, e quindi il 25 lo passo in famiglia, siamo lì a Stentino, al Bagaglino, a mia sorella, e quindi siamo tutti lì, ci divertiamo. Se poi vedo che ho mangiato e bevuto troppo, dormo lì e parto da lì per andare al lavoro, non c'è problema, non me la fate nulla. Se no ti devi privare di tutto con questo cacchio di leggi che di merda che hanno fatto. Poi questa settimana c'è pressione di polizia, poi adesso anche le tostate, ma adesso abbastanza siamo tra le 3 di mattina lì, dalle 5 in poi, prima della cultura vecchia, sulla destra c'è la strada degli Uffieri, porterò un alzato e quello che faccio il chilometro. È un casino, bastano 2 vini e si è fregato, purtroppo è così. Ma sì, ma dite, guarda, la settimana scorsa è il turno di sera, di chiusura, Fabri, di chiusura, sai lì la chiusura esce alle 10, no? Quindi tra cambiarsi tutto mi pare uscita 10:15, 10:20, dall'uscita lì perché lì esce da quel cancello grande, 50 metri dopo il cancello la stradale, ma va, dimmi tu, cioè che la stradale c'è poi saponita, anche per la rieda, ragazzi, ma mentre ci vai, invece di andare a controllare veramente le strade, hanno sottoposto, hanno detto, ma hanno visto una ragazza, ne hanno approfittato, invece papà erano due giovani, si vedevano. Sottoposto il chilometro, controlli tutta la macchina, ci apre il cofano, ci apre qui, ci apre là, oh, tutta la regola, hanno fatto 78 euro, cazzo, per una lampadina fulminata che tra l'altro aveva la macchina della madre, perché la sua era la Mercedes, che stanno risolvendo un problema che è nato da poco, che praticamente c'è una soffiatura nella testata, non se ne sono accorti. Le grazie, quindi bagnava la candela e andava a 2 cilindri, quindi è già una decina di giorni giù, spero che li arrivino sta settimana, perché sto usando la macchina della madre e siamo un po' incasinati, e gli hanno fatto 78 euro cazzo, per una lampadina da 10 euro, ma te ne mangi 78 euro, hai detto cazzo, ma chi si rimuove in mania 78 euro, bastardi, che no, ma poi sicuramente super, ma poi sono così, capito, io può succedere, io invece ho avuto un problema con un coglione della strada di Ossiri, e meno male che ero con un capitano di carabinieri, no, un parente, quando ci hanno fermato, erano le 2 di mattina, fatto i documenti, tutto grato, e avevo un po' bruciato, no? No, loro avevano una bagnata e bruciata la macchina. E tu prendi un gioco, bla bla bla bla, dobbiamo fare la muta, c'è la faglia, la cambio, io la prendo dietro, faccio un posto, se vuoi la muta la faccio. E lui mi fa la muta, ma chi ve la fa la muta? Mi sembra che fare un bruciato, ma lui chi ve la fa la muta? E cerchiamo il carabinieri e poi vediamo. Mi sto sarà legge uguale per tutti, vediamo chi vi mette però la multa. Tanto la disiccato. Vabbè, vabbè, vada, vada. Si è andato bene. No, ma qua veramente, cioè, non la prende quasi mai l'aria alla macchina della madre, perché la mia la sto usando io. E lei ha preso quella. Perché la macchina mia di servizio, quando io sono andato in ferie, l'hanno fusa. E quindi sono capiti pure lui. Adesso spero che in settimana ne arrivi qualche un'altra, ma stamattina ero con un dirigente e mi ha detto che la prossima settimana già me la danno, quindi mi sto arrangiando un po' così perché ce ne manca una. E l'aria mi cambia via, c'era un fulminatore, la macchina di mia madre, non lo so, forse non se ne è accorta neanche lì. Sì sì, 78 euro. Mamma mia, non è un male, solo perché non l'hai tracciato la parte la multa. Era poi per una ragazza e portano i toghi e sono così. Poi c'è andato un'altra mattina, ma ne filmato. Stavo salendo, era ancora mezzogiorno, lì alla dopo Graziella, le zattere che c'è sulla vetta, dove si mettono quegli ambulanti. Cazzo erano due pattuglie, di cazzo si è sul bastone. Cazzo chi studia, perché tu come ti devo dare? E l'altro è rimasto lì a pianto rame, no? Aveva la mezzaglietta accanto a un palmo da me. Mi ha fatto scusa, mettiamo un abbasso con la mezzaglietta, tanto non scappo. Lui mette la sicura a me, onestamente, lo mette la punta in fronte. C'è stato un caso molto, molto delicato per questa cosa dei carabinieri. Un litigio, stavo leggendo da poco in una rivista, un litigio ha denunciato a uno della stradale, proprio a strada di Assiri, perché l'hanno fermato così come è successo a te. Grazie. ieri l'ho fatto pisciare sotto, perché mi ha dato un'occa all'ultimo con gli amici, stavo guardando la cosa, cioè, c'era un controllo, sono io ero già là, ero seduto tranquillo per vedere una cosa, cazzo con una ragazza, arriva lì su, io siccome ho sempre un registratore digitale appresso, no, perché so come funzionano questi animali, come l'ho visto entrare la cosa e me l'ho messo a registrare, è venuto questo qua a faccia arrogante, no, ho fatto, mi dà i documenti per favore, sì, sono che per favore gli ristorando, e allora io l'ho portato in casema, guarda che lì quando mi porta in casema, non mi fa portò, capito? Però lì quando mi porta in casema, vedete anche lì al suo superiore, siccome ci sta comportando, capito? Mi viene buongiorno, per favore, capito? Non si parla con gli animali, e ma il mio superiore credo a me non che è lì, io sempre registrando. A questo mio collega che era con me al MEC, no? Di Porto Torres, si chiama come me tra l'altro Claudio, c'è una Civic, come si sembra si chiama, quella della Honda, bellissima, nera, nuova, nuova, e deve arrivare a Sangoga, ogni volta che esco, perché lui abita lì via Barai, no? E quelle ultime case che hanno fatto lì vicino alla chiesa, dove c'è il coso, il radio del golfo, proprio in quel piazzale lì. Ma ogni volta che io esco da lì, che faccio via Balai, poi gira per fare praticamente, per lui sale sempre dalla Butti, praticamente fa la polemica, ma lei lo fermano sempre, sempre. Nel tuffo le chiedono sempre la stessa cosa. Dove sta andando, dove abita, di chi è questa macchina? Sempre la stessa cosa, sempre la stessa cosa. Quando poi stavo continuando, fatto, questi qua però fatto l'unione con i documenti, ti molla, un casino. E poi hanno fatto verbale, hanno fatto, no? E poi un po' di hanno fatto, tiro qua, degli attaccati, gli sono male. E io registrando sempre, loro sapevo. Mi è riferlata ieri, dopo che io sono stato a casa, c'erano dei parenti che sono avvocati, gli ho fatto ascolta, voi guardate, non è la cosa che ci sono note. Ma cazzo Fabri, se noi ci facciamo la denuncia a questi tre, con questa prova che abbiamo, loro hanno fatto un verbale, hanno dichiarato il falso, ma sai cosa vuoi? Cazzo che lo fanno nuovi. Beh, siamo andati a comandare i carabini e gli abbiamo fatto ascoltare la coppia. Guardi i suoi uomini, cosa stavano fatto ieri notte. Al mio cliente l'hanno fatto affamare, hanno fatto un verbale fatto che... Sì, poi l'ha detto il comandante, mi ha detto per favore, non so come... Però se qua andate oltre, qua sono casini, se andiamo in tribunale, questi signori perdono il posto. Perché hanno filmato una ricetta falsa. Ce n'è parecchi, guarda, lascia perdere. A me mi capita poche volte di avere a che fare con questa gente perché io, vabbè, in periodo estivo sto molto in giro con la macchina di servizio, però tocca e fuga perché praticamente controllo determinate cose e poi parto in fretta, insomma non sto molto sul posto. Ma ci sono altri colleghi che hanno grosse difficoltà, soprattutto con i carabinieri con la strada, perché non ti danno trigo, capito? Non ti danno trigo, sai, dove sono io, ti mandi i veci, ti furgoncini, un po' che devo ultimare, no? A volte ti vedono, magari tu sei in una corsia, non sono nell'altra, gira una macchina, attacchi con la peggiante e ti ferma. Capito? È ma macchine con le scritte, insomma, non è vero, sono macchine di enti che stanno lavorando, non ne ho tutti nulla. A mio collega gli hanno preso il libretto perché cioè il libretto gli hanno tolto i punti perché era senza cinghie e poi la volevano sequestrare la macchina perché non c'era revisione, cioè guarda io la guido solo questa macchina, non devo occupare anche del settore amministrativo, dice aspetti un attimo, io chiamo, stavano facendo un sequestro, invece lui è riuscito a chiamare un dirigente, sono arrivati subito e col bollino, praticamente la segretaria di quella che si occupa dei metri, revisionata e gli ha fatto una multa per mancata visione del bollino adesivo sul libretto. Sono così, sono pezzenti, ho cercato di fare, sono due ladri, e poi la maggior parte di questi impazzamenti sono anche ignoranti proprio, e si puntano, capito? L'incertezza tanto si punta, capito? Però vuoi la favola, tanto uno di questi coglioni che ha concerto le sapere, ma tu prova a pensare se uno avesse avuto la cambia prova, no? Se non avesse in galera senza averne avuto cosa. Se non me l'hai ragione Fabria, qua peggio, è ancora peggio perché hanno sempre ragione loro, ma gli altri lo dici, ma guardi se poi si è fulminata adesso, parlo di una lampadina, guardi che sto uscendo da questo vicolo, come è successo a me, alla corte, non ho mai visto carabinieri lì, sono uscito dall'impianto, non mi ho attaccato la cintura perché proprio così ero sovrappensiero, 50 metri dall'impianto della ci passano manco le capre, alzo la battuta dei carabinieri, ma l'ho vista brutta, e ho detto guardi, lavoro, gli ho detto dove lavoravo, poi ci ho messo la macchina, quindi c'era poco da discutere, sono uscito a 50 metri e allora dice, si deve abituare quando si siede in macchina, mette in moto, poi si allaccia le cinture, poi lei può andare dove vuole, per questa volta passa, alla prossima le togliamo i punti della patente più la rotta vettione. Ma lei mi duca, 50 metri più va. Mi vanno anche la stessa prestata in generale. E non c'è niente da fare, dove il serpente non vuole che ti ha ragione, si punta come l'aria e ti resta la muta. E la farina poi, adesso tipo un momento non so, no, basta un fosso, l'altro mi accade un fosso, si fulmina, è normale, no? Ci va presso un attimino, io che cazzo ne so se io non vedo dietro, capito? La macchina all'interno non me lo segnala e cazzo io non vedo, io mi fermo, ce l'ho appreso, un minuto la sto cambiando, capito? Infatti queste multe così di sera a è un furto, cazzo, io ce l'ho appreso, mi fermo, la cambio un minuto e blu e esce lì. Lo so Fabri, lo so, però ti ripeto, ribadisco che hanno ragione loro. E non c'è niente da fare. Hanno ragione loro, non c'è niente da fare. Ogni qualora, tutti oppuri, ogni volta che dici qualche stronzata, loro ti aggrediscono ancora di più. Ok, dai, Fabri, io ti saluto, che sono le 11:25, che domani la sveglia è molto, molto presto. Mi guardo 10 minuti proprio di TV e poi me ne vado a nanna. Grazie alla compagnia, ti saluto l'aria, fatti vedere e niente, e fai la brava quando vedi al tuo anonimo, saluta, vuol dire, ha detto Claudio che viene te ne taglia l'osso e il capocollo. Vabbè dai, salutami l'aria, buonanotte, bravo, per domani ci sentiamo, va, stiamo bene. Ah, bravo, però io sto facendo mal computer, perché mi ci vuole fare un programma fin da adesso, ci aggiorniamo qua, ok? Eia, ciao Lugarie, pensavo che avessi il volume abbassato, già ci sentiamo e ci aggiorniamo, dai, ciao Fabri, tanto ha cambiato tutto, quando voi fate due chiacchiere già serve trovarmi, sono sempre in oghe, starmi bene e buonanotte a tutti. Domani se coincide, se Gesù Cristo ci lascia, passo e chiudo. Ehi, ciao Claudio, ma ciao Fabri. Beh, dai, allora. Allora, va bene. No, io mi stavo ascoltando un po' Brutto Nauti, sapevo che cazzo è il mare, ma metti di più. Adesso mi ho un paio di minuti e vado via, prego. Perché è stanco e lui già meno. Vado a nanna. È un casino, bisogna andare a nanna, che ho cagato. E via. Sono anche qua, invece non è molto tardi, sono già le 11 passate, 16:30 passate. Ho già fatto. Vabbè Luca, dai, ti saluto, buonanotte, stiamo in me, sarà bravo e ci sentiamo alle 12. Ciao, va bene, alla prossima, ciao.